Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi propongo un libro che tratta con molta delicatezza di un tema che certamente sta a cuore a tantissime famiglie italiane ed è il tema degli anziani, o meglio dei genitori anziani, un tema trattato, ripeto, con grande serenità e delicatezza da questo libro di una giornalista francese, Sophie Fontanelle, che lavora a Elle e che ha pubblicato con Mondadori Avrò cura di te, quando si diventa genitori dei propri genitori, pubblicato da Mondadori, 134 pagine, 17 euro ed è tradotto da Teresa Albanese. La protagonista è dunque una donna di successo, figlia di una signora di 86 anni che racconta appunto l'esperienza del rapporto con l'anziana mamma, la quale sta scivolando verso l'uscita e anche verso una sorta di incoscienza, quella nella quale ci si chiede, come spiega l'autrice, che cosa voglia dire essere presenti e nella quale ci si deve rimettere, scrive ancora la Fontanelle, alla benevolenza degli altri, cioè dei figli in primo luogo. Da questo rapporto complesso, certamente, nascono nel libro della giornalista molte riflessioni sulla vita, sulla famiglia, sull'amore parentale e su quello dei figli. Tutte riflessioni che possono contribuire a cambiare la propria sensibilità e anche molte proprie idee radicate sulla propria vita e sulla vita degli altri. Il libro è ricco anche di spunti ironici, per esempio. A un certo punto la Fontanelle ricorda che con l'ironia fino a un certo punto ci si può credere immortali e a questa arma ricorre proprio la mamma. La smemoratezza nel libro della Fontanelle può essere uno strumento per far assaporare le gioie dell'imprevisto. E poi c'è la scoperta di quanto un genitore possa sempre dare fino all'ultimo ai figli, anche quando dai figli sembra dipendere. Ma di questo parliamo con l'autrice. Buongiorno a Sophie Fontanelle. Bonjour. Sophie Fontanelle, lei scrive nel suo libro che si diventa grandi molto tempo dopo che si è finito di crescere. Ecco, questo cosa significa? Che vuole sottolineare l'importanza dei genitori che dura per tutta la vita dei propri figli? Sì, per crescere bisogna staccarsi dai genitori e poi credo che per finire di crescere si debba riavvicinarsi ai genitori quando sono vecchi per poterli aiutare. Nel suo libro lei spiega che l'anziano è ben diverso da un bambino, come spesso invece si pensa. Un bambino è il futuro, un bambino è una creatura da rendere indipendente, lei scrive. L'anziano invece è diverso perché l'indipendenza che verrà sarà la tua. Ecco, questo appunto è un sentimento molto diverso rispetto a quello che si pensa quando si suole dire appunto che si torna bambini quando si è anziani. Si ha sempre l'impressione che una persona anziana, soprattutto nel nostro mondo, o meglio la persona anziana stessa, ha l'impressione di non servire più a nulla. Si ha un'impressione di inutilità ed è necessario poter ridare alle persone molto anziane un ruolo importante. Che tipo di reazioni ha avuto sulla sua rubrica dunque alla pubblicazione del suo libro e alle sue osservazioni sugli anziani? La cosa sorprendente è che io ho scritto cose simpatiche, buffe. Ho scritto sulla moda che passa ed è qualcosa di molto futile, anche se non penso in realtà che sia futile. E all'improvviso parlo di me, ancora giovane, che parlo di questa madre così anziana. Questa cosa ha liberato molte persone e ho ricevuto tantissimi messaggi e soprattutto la gente mi guardava in maniera diversa, come se tutti respirassero meglio quando si dice che la vecchiaia è qualcosa di bello. Da questa sensibilità particolare che lei dimostra per le persone anziane, che cosa pensa di aver scoperto? Io non mi sono occupata soltanto di mia madre, che è ancora viva. Io apro gli occhi su cosa significhi il tempo che passa, su cosa significhino le altre persone anziane. Ce ne sono nel mio palazzo, ce ne sono nella via, ovviamente come ovunque. E prima non vedevo il tempo che passava, ora lo vedo sulle donne anziane ricurve ed è una vera ricchezza. Nel periodo difficile dell'assistenza a sua madre, lei scrive di aver trovato la sua grazia. Grazia è una parola difficile, complicata. Che cosa vuole intendere con questa parola? Ma io credo che... c'est pas pour rien que j'ai écrit grâce. Moi, j'ai été élevée dans la religion catholique, mais je suis pas du tout. Non ho usato il termine grâce, grazia, a caso. Sono stata cresciuta con la religione cattolica, anche se non sono praticante. Per me la grazia è qualcosa che mi dà un'idea di cos'è il senso di tutto questo, il senso della vita. Vedere questa donna che lascia il suo mondo, che parte, vedere tutto quello che mi può dare, tutto quello che io posso ancora darle, se volete, è un'elevazione. Volevo che il mio libro si chiamasse L'Ascensione, l'Ascensione, così come esiste la festa dell'Ascensione. Per me questa donna sale da qualche parte, non so se si tratti del cielo, ma in ogni caso è una lezione per me. Per questo è la mia grazia. Sulla base della sua esperienza, come modificherebbe i regimi di welfare rivolti agli anziani? Non so come sia il sistema in Italia. Quello che so è che quello che non va non è nel sistema, ma l'implicazione dei figli nel sistema. Se vostra madre è in una casa di riposo, per quanto sordida possa essere, se andate spesso, se sapete portare a vostra madre o a vostro padre della felicità, farete cambiare loro la percezione del posto in cui si trovano. Dunque il cambiamento deve essere sulla mentalità. Donc c'est pas tant l'institution, moi pour moi le changement il est dans les mentalités surtout. Grazie a Sophie Fontanelle e auguri a sua mamma. Grazie. Un'anzianità scoppiettante è quella descritta nell'ultimo libro di Guido Ceronetti, In un amore felice, pubblicato da Adelphi, 314 pagine, 19 euro. L'autore è uno dei grandi vecchi della letteratura italiana, che mostra qui una grande vivacità nell'accostarsi non solo al tema degli amori senili. Il protagonista, infatti, è un 75enne Aris, fotografo di guerra, che intreccia una relazione con un'Ada assai più giovane, di 50 o forse qualcosa meno, anni meno di lui. Affronta non solo questo tema, dicevo, ma anche una cornice insolita che è dominata nell'Italia della fine degli anni 50, in cui incontriamo anche a un certo punto Andreotti, è dominata dalla paura, o per meglio dire dall'attesa dell'arrivo dei marziani, come si diceva allora. In effetti l'autore spiega di non voler usare la parola UFO e scrive infatti: invece delle squallide tre lettere UFO, in un'epoca di fertili connubi tra il linguaggio e l'immaginazione, l'oggetto venuto dagli spazi o dalle tarlature planetarie sottomarine o dalle basi segrete di Yale Hunke o del Musineo delle Bahamas era chiamato da alcuni autori carro di fuoco, come attestato dal rapimento di Elia che, diceva Aris, per nulla l'avrebbe meritato. Ma importa il linguaggio, non l'accaduto, così scrive Ceronetti, il quale spiega ai lettori di volersi dare da fare per raccontare storie intricate, interpretando il mondo in modi che feriscano la conformità. E, devo dire, ci riesce con una trama complessa che intreccia la storia d'amore con la storia parallela di una mobilitazione planetaria per scoprire la ragione di strani fenomeni e di strane presenze che sembrano moltiplicarsi in tutto il mondo, al centro dei quali troveremo proprio Aris e anche il fantasma di Nikola Tesla, l'inventore e scienziato geniale croato-statunitense che non fu soltanto un grande scopritore e un innovatore nel campo dell'energia elettromagnetica, ma anche fu una persona molto eccentrica che dichiarava appunto di essere in comunicazione con gli extraterrestri. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Do ovviamente per scontato che tutti voi che seguite questa trasmissione siete grandi appassionati di libri e naturalmente crediate nel valore taumaturgico del libro. In realtà i libri possono essere anche cattivi, o almeno possono essere giudicati addirittura malvagi, e questo almeno è il titolo di un libro che ripropone alcuni giudizi su alcuni libri. Il libro si intitola appunto Sui libri malvagi, è curato da Aldo Canovari, è pubblicato da Liberi Libri, che è la casa editrice dello stesso curatore, 170 pagine, 16 euro. Un libello, così lo definisce il curatore, per esaltare la libertà d'opinione e di coscienza, gli attentati alle quali sono esemplificati dai testi qui raccolti di due papi, Clemente XIII e Gregorio XVI, un vescovo marchigiano dell'Ottocento, Amadio Zangari, uno stampatore romano del Settecento, Generoso Salomoni. Ma il libro si apre invece con un testo ironico di Voltaire, che assume le vesti del mufti dell'impero ottomano proprio per sottolineare ironicamente la importanza della libertà di stampa. E infatti il Mufti pubblica un bando nel quale vuole condannare, proscrivere, maledire la invenzione infernale della stampa. Spiega le ragioni di questo bando, la principale delle quali è la facilità di comunicare le proprie idee, che tende evidentemente a dissolvere l'ignoranza, che è la custode, la salvaguardia, scrive il musulmano, degli stati ben amministrati. E poi ci sono le altre testimonianze, quelle vere, per esempio quella di Clemente XIII, che nel 1766 è spinto a essere vigile affinché la insolente e orribilissima licenziosità dei libri, emersa da segreti nascondigli per provocare la perdizione e la rovina, non diventi tanto più perniciosa quanto più espandesi di giorno in giorno. Oppure lo stampatore Salomoni, che nel 1777 dedica a Pio VI un libro nel quale vuole dichiarare la somma necessità di torre, cioè di togliere dalle mani dei fedeli i libri di qualsiasi rea dottrina, eccetera, eccetera. Poi c'è Gregorio XVI, il quale ufficialmente definisce la libertà di stampa come un'assurda ed erronea dottrina, anzi un delirio, e associa a questo delirio l'altro pestilenziosissimo errore rappresentato dalla piena e stemperata libertà di opinioni che, dice il Papa, rovina delle sagre delle civili bisogne e largamente serpeggia. Il curatore riconosce che da allora passi avanti se ne sono fatti. Naturalmente ricorda che non c'è stata solo la Chiesa a condannare la libertà di stampa, anzi la Chiesa ha fatto marcia indietro e oggi riconosce e rispetta la libertà d'opinione. Mentre scrive: odio teologico, criminalizzazione, libero pensiero, dogmatismo sono appannaggio di un'altra grande religione, l'Islam, i cui più fanatici e zelanti fedeli vanno inseguinando un occidente atterrito e codardo. E poi, aggiunge Canovari, ci sono tutte le fattispecie ancora presenti negli ordinamenti di penale di moltissimi paesi d'Occidente che configurano come reato la manifestazione di determinati pensieri, cioè i cosiddetti reati d'opinione. Insomma, un inno appassionato alla libertà di stampa e d'opinione e alla tentazione di considerare appunto malvagi i libri. Ma a fronte dei libri malvagi ci sono anche appunto i libri buoni e soprattutto i libri a buon prezzo, e questo è il titolo del libro di una studiosa milanese, Ada Gigli Marchetti, sulle edizioni Salani. Il libro è pubblicato da Franco Angeli, 576 pagine, 45 euro, che racconta una storia a modo suo esemplare, molto interessante, su Marchio Editoriale, che con le sue collane, che sono tutte qui ricordate, documentate titolo per titolo, ha fatto molto per la cultura italiana. Adriano Salani fu il fondatore, era fiorentino, figlio di un ortolano, non voleva vivere tra rape e carciofi, visse tra il 1834 e il 1904 e passò appunto molto presto a lavorare come garzone di tipografia, fino ad aprire la sua tipografia a 28 anni, decidendo di rivolgersi a un pubblico popolare e inventando un nuovo mercato, il mercato delle edizioni popolari basato sui fatti di cronaca nera. Salani pubblicava dei fogli che in tempo reale, come diremmo noi, il giorno dopo commentavano i fatti di sangue che avvenivano nella sua città, e addirittura pare che nel caso in cui i fatti di cronaca non ne succedessero, un po' li inventasse, provocando delle risse sulle quali poi naturalmente provvedeva a fornire i commenti. Da questa attività nacque poi una vera e propria attività imprenditoriale, editoriale, sempre basata su testi di tradizione popolare, che portò alla nascita di tante nuove collane e soprattutto al soddisfacimento, come riconobbe Antonio Gramsci, delle esigenze intellettuali e artistiche di alcuni strati del popolo minuto. Culmine del successo di Salani furono le opere di Carolina Invernizzi, che lo stesso Gramsci definiva l'onesta gallina della letteratura italiana, ma che fu una gallina dalle uova d'oro per la casa editrice, perché fu un'autrice di straordinario successo, popolare e non. Ritroviamo anzi nel successo dell'Invernizio qualche carattere che evidentemente non si è modificato di molto. Infatti l'autrice cita qui un profilo pubblicato dalla stessa casa editrice nel quale si riconosce che i romanzi dell'Invernizio avanti il 1914 si vendevano moltissimo, e non è esatto che li leggessero soltanto persone di scarsa cultura. È vero invece che solo queste ammettevano di leggerli, mentre le signore di ceto più elevato li leggevano senza voler ammettere di farlo, come si fa oggi quando si ammette di leggere certi giornali solo dal parrucchiere. Poi naturalmente Salani si dà a opere più impegnative, pubblica dei classici, pubblica bellissime edizioni della Divina Commedia, fino al declino successivo alla Seconda Guerra Mondiale, al declino della famiglia fondatrice, alla crisi che fece passare di mano la casa editrice, la quale peraltro nel nuovo corso è stata segnata da successi stratosferici come quello di Harry Potter. Una novità Salani è il libro di Stefano Bartezzaghi, Sedia a sdraio, giochi impensati per svagare la mente, pubblicato appunto da Salani, 94 pagine, 9,90 €. L'autore è un grande enigmista, scrittore, semiologo, che scrive questo libro pensando proprio alle vacanze, per fare dei giochi a occhi chiusi, per allenarsi senza muovere un dito, con giochi appunto mentali che mettono alla prova tutti noi stessi. Torniamo ai libri malvagi. I libri, se non malvagi, possono comunque essere spunto per storie misteriose come quelle che racconta Jean Sanson, che è un autore inglese che ha dato vita alle storie del Biblioblues di Tandrum, di cui è protagonista il bibliotecario Israel Armstrong, che qui ritroviamo nell'avventura Galeotto fu il libro, pubblicato da Tea, 322 pagine, 12 €, tradotto da Claudio Carcano. Qui addirittura Armstrong rischia il posto per aver concesso in prestito un libro considerato particolarmente sensibile e dunque teoricamente escluso dal prestito ai più giovani, e questo libro è stato concesso a una ragazza che improvvisamente scompare, e da qui la corsa per ritrovare la ragazza e per salvaguardare il proprio posto di lavoro. Sentiamo, ricollegandoci proprio al tema della libertà di pensiero, la particolare personale filosofia di Armstrong che lo porta appunto a prestare alla ragazzina scomparsa niente meno che un libro di Philip Roth, pastorale americana. Non che fosse d'accordo sulla censura, niente affatto. Al contrario, non accettava i fuori scaffale per principio. In quanto libero pensatore vegetariano ebreo della zona nord di Londra, uno che avrebbe quasi certamente letto il Guardian con cadenza quotidiana, se il Guardian fosse stato disponibile con cadenza quotidiana a Tundrum, Israel non vedeva nessun problema al libero accesso a tutti i libri disponibili e a tutti i ricchi e particolari sfoghi della mente umana. Francamente, secondo l'opinione di Israel, intorno agli 11 anni potevi, e anzi dovevi, leggere di tutto. Forse non era il caso di bere alcol, sposarsi, guidare l'automobile, ma di certo dovevi essere autorizzato a leggere Sotto il vulcano, Madame Bovary e Crash. Altrimenti, come facevi a imparare? All'inizio dell'adolescenza, Israel aveva letto tutto di William Burroughs, Lawrence e di Norman Mailer, e anche Lolita nella biblioteca di quartiere di casa sua, nella zona nord di Londra, alla ricerca delle scurrilità che in genere altri avevano già scovato e debitamente sottolineato, e questo non gli aveva arrecato nessun danno, o quasi. L'intreccio tra libri, delitti e bibliomania è sempre molto diffuso e viene esplorato nel libro di Mario Baudini, che è un giornalista della Stampa, Ne uccide più la penna, storia di crimini, librai e detective, è pubblicato da Rizzoli, 174 pagine, 15,90 €. Baudino parte dalla constatazione che c'è una serie non irrilevante di eroi dei libri, scrive, detective molto particolari, gente che in certo qual modo risolve i misteri del mondo partendo da una biblioteca reale o immaginaria, per esempio Guglielmo da Baskerville nel Nome della Rosa, e qui vengono passati in rassegna con un finale a sorpresa che sottolinea il quasi costante ruolo di un gap. Viene passato in rassegna appunto l'ambiente prezioso di molti investigatori. Troviamo tra questi Nero Wolf, di cui vi propongo il ritratto nella veste di bibliomane. Nero Wolf legge quando è nervoso, quando è sovrappensiero, quando è di buon umore e quando vuole essere antipatico. Legge sempre, in modo indiscriminato. Talvolta il libro è di qualche aiuto, diciamolo indiziario. Molto spesso non ha alcuna attinenza con l'avventura che ci viene narrata. È una costante, un basso continuo che affila le sue armi, tutte, ma nessuna in particolare. È un esercizio. Wolf, lettore acutissimo, può ricordare a distanza di mesi un nome scorso distrattamente su una lunga lista, oppure scatenarsi in un'analisi stilistica decisiva per le sue indagini, superando in attenzione e acume i clienti scrittori ed editori. È il lettore implacabile, quello che molti vorrebbero essere e nessuno, per fortuna è, perché nulla gli sfugge e nulla dimentica. Quello per cui il libro non ha segreti, forse neppure ambiguità, è un'astrazione. Il confettino. Vi segnalo oggi il libro Regalami le ali di Heinz Janisch con le illustrazioni di Selda Marlin Soganci e tradotto da Marta Donzelli. Donzelli, 19,90 €. Questo è un album illustratissimo per raccontare lo strano e proficuo incontro tra una bimba e un angelo in cerca di ali di ricambio. E con questo ringrazio Claudia Carusi in redazione e Piero Laccorti in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica, appuntamento la settimana prossima.